Deborah, io l'ho avuta in trasmissione. Chi? La donna di cui parlano tutti i La giornali. moglie di Bill Gates? Ah, no, no, io ho avuto ben di più, la Fabiola Gianotti. Ah, il bosone di Higgs. Senza di lei e senza il suo gruppo, in fondo, Peter Higgs non sarebbe Peter Eh no, Higgs. donne straordinarie, come quelle che ci scrivono. Tra l'altro, posso leggerti questo messaggio che ci è arrivato Dai, nelle ultime ore? lo. Brave, brave, brave, anche noi siamo due donne, vi ascoltiamo mentre lavoriamo, facciamo gli amministratori di condominio, non faremo mai denari perché siamo oneste, ma ci mettiamo il cuore nel nostro lavoro. Salutiamo Antonella e Nicoletta e noi partiamo. E noi andiamo. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Praticamente c'è Attila, Gengis Khan. E io, Nick Naylor, il volto delle sigarette, lo zio Sam della nicotina. Tempi duri per gli amanti delle bionde. Ieri il Parlamento europeo ha approvato con larga maggioranza la direttiva sui pacchetti shock per le sigarette. Dopo oltre 10 anni di scritte con avvertimenti sulle conseguenze del tabacco a scioccare i fumatori o a tentare di farlo, arrivano infatti ora le immagini. Il 65% del pacchetto, nella sua parte alta, dovrà essere molto esplicito. Polmoni anneriti, persone con tumori alla bocca, per fare solo qualche esempio. Il fumo costa alla salute e al portafoglio. Chi smette ci guadagna, lo abbiamo ripetuto tante volte, e ci guadagna sempre. Da uno studio pubblicato sul New England emerge che chi smette di fumare guadagna 9 anni di vita. E allora avete mai pensato a quanto potreste risparmiare smettendo? Raccontatecelo all'800240024. Se stavate già pensando di smettere, provate a prendere il coraggio per fare questo grande passo oggi con noi. Parleremo di costi e di guadagni con i nostri esperti. Se avete già smesso, raccontateci come avete fatto e che cosa avete guadagnato al 349-238-6666 oppure seguiteci su Facebook e su Twitter. E infine, per chi fuma, ma anche per chi non fuma, appuntamento dopo il GR delle 12 con un tema che non ci allontana molto dall'idea della terapia d'urto. Parliamo dei titoli di Stato, con una nuova operazione organizzata per questa mattina dal Ministero dell'Economia. Dopotutto, lo spread non è stato una terapia d'urto anche per la nostra politica e la nostra economia? Essere e benessere. Polmoni anneriti, denti ingialliti o marci, rughe. Questo e altro ci troveremo, care amiche, cari amici, sui pacchetti di sigarette. Ma la domanda, come si dice, sorge spontanea, basterà? Eh sì, infatti, perché oltre alle immagini, questa direttiva della quale stiamo parlando questa mattina, che ha avuto il via libera ieri a Bruxelles, anzi a Strasburgo, contempla anche altri deterrenti al fumo. Saranno vietate le confezioni con meno di 20 sigarette e le sigarette sottili, cioè quelle praticamente per giovani, perché sono soprattutto i giovani, credo Nicoletta, che comprino i pacchetti più piccolini per risparmiare sì, un po'. Certo, e la ricarica del cellulare. Esattamente. Verranno aboliti gli aromi, quindi stop ad esempio alle sigarette al mentolo, e non si potranno neanche più vendere le sigarette elettroniche in farmacia. Insomma, Deborah, una vera e propria, possiamo definirla, terapia d'urto? E direi proprio di sì, è il termine giusto. Proprio a cominciare dalle immagini che promettono di essere davvero un pugno nello stomaco per il fumatore. Funzionerà? Lo chiediamo a uno che di campagne se ne intende e ne sa molto. In linea con noi abbiamo il professor Alberto Contri, che è presidente della Fondazione Pubblicità Progresso e docente di comunicazione sociale allo IULM. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno a tutti. Professore, le piace? La lascia un po' perplesso? La vorrebbe diversa? Cosa ne dice? Ma guardi, a parte che io sono un ex fumatore, ho smesso quando avevo 25 anni, poi possiamo raccontare cosa ci ho guadagnato. Io sono sempre un po' perplesso, a parte il fatto che mi domandavo stamattina in attesa dell'intervista, dico ma allora perché non vietano tu cur la vendita? Se fanno così male, come sembra dimostrato, perché non ne vietano la vendita? Allora perché dovrebbe essere libera la vendita e poi però terrorizzare con tutte queste immagini? Devo dire che le scritte in passato non hanno funzionato granché, anche perché sono subito nati i copripacchetto, eccetera. Contemporaneamente ricorderei che anni fa negli Stati in Inghilterra fu messo in mente una marca di sigarette in pacchetto nero con un teschio con le ossa incrociate e si chiamava Death, che vuol dire morte, che ebbe una grande attrattiva sui giovani perché è l'attrattiva del rischio. In questo caso probabilmente qualche risultato maggiore ci può essere, perché un conto è vedere un simbolo dei pirati e un conto e vedere un polmone marcio, i denti marci, cose di questo genere. Ma professor Contri, secondo lei queste immagini chi andranno a colpire? Il fumatore accanito, sì, come ha coperto la scritta, copre l'immagine, no? Sicuramente. Comunque, allora, il fumatore accanito è difficile che si lascia convincere. Il giovane probabilmente, io posso solo dire che quella, ho sentito dire che ci sarà qualcosa sulle rughe. Sì. Allora, negli Stati Uniti ha avuto molto successo una campagna rivolta alle donne dove si vedevano le microfotografie della pelle dopo 20 anni di fumo, tutta invecchiata con le rughe. Allora, le donne, che sono ovviamente molto sensibili, sì, devo dire anche gli uomini, però le donne di più, hanno in maggioranza smesso di fumare. Anche perché, professore, attenzione, spianare le rughe costa. Magari poi ci facciamo, esatto, una puntata. Esatto. E quindi allora, questo vuol dire che evidentemente di fronte a un'evidenza, però i giovani in realtà probabilmente di fronte, soprattutto i giovanissimi, che sono poi quelli che sono anche preda dell'alcol e così, non sono tutto sommato, non so quanto pensano così al loro futuro. Io quando ho smesso avevo 25 anni, quindi non ero giovanissimo. Beh, qualcuno ci pensa, professor Contri, sono Deborah Rosciani, perché ci stanno scrivendo che magari, ecco, l'immagine non potrà rappresentare per le proprie abitudini un deterrente, ma il fatto di pensare che, come dire, smettere fa guadagnare 8-9 anni di vita, quello sì che è un bel incentivo all'interruzione appunto da questa dipendenza. Professor Contri, le volevo chiedere, ho capito qual è il suo pensiero rispetto a questa campagna appunto del Parlamento europeo, lei dice non ci credo più di tanto perché allora non interrompono direttamente la vendita, a provare a mettersi contro le multinazionali del tabacco è un po' difficile, ma le chiedo, rispetto a queste campagne shock, come sono state definite, sono mai stati quantificati i risultati dei loro effetti? Diciamo, mi vengono in mente quelle di Oliviero Toscani, che per la verità pure non giudica molto positivamente quella della quale parliamo questa mattina. Si quantificano? Quella sull'anoressia, si sa che tipo di penetrazione ha tra le giovani che vengono colpite da questo problema? Valutare gli effetti di una campagna sociale sulle motivazioni di fondo è molto difficile, si possono fare al massimo delle ricerche qualitative. Io mi ricordo che in occasione di quella campagna lì sull'anoressia, che poi era una campagna a favore di un prodotto di vestiti, non era era una finta campagna sociale, diciamo, era per un marchio di vestiti, la presidente dell'ABA, che è l'associazione che assiste 3 milioni di anoressiche, mi raccontò che il manifesto addirittura veniva usato dalle ragazze, se lo appendevano in camera come modello, come simbolo, come modello, perché l'anoressica cerca a tutti i costi di dominare se stessa e quindi di vincere la fame e di non mangiare. Quindi quello era un esempio da seguire. Quindi bisogna stare attenti che c'è proprio sempre la possibilità, non per nulla remota, di un'attrazione morbosa verso l'aspetto negativo. Non verso, insomma, l'aspetto professore, noi staremo a vedere. Intanto voglio chiedere anche agli ascoltatori se e come, che cosa pensate di questa sorta di terapia d'urto, e a proposito di terapie d'urto, se ce n'è qualcuna che con voi ha funzionato, se le attuate anche voi con amici, familiari, qualcuno le ha utilizzate con voi, quale immagine ad esempio usavano i vostri genitori per dissuadervi dal mangiarvi le unghie, di andare a letto troppo tardi. 800 24 00 24. Professor Contri, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, buongiorno. Questa notte passa in fretta, passa il tempo di una sigaretta. Passa questa notte, passa, questa notte passa in fretta. Con le buone o con le cattive, con le immagini o con le parole, l'importante è smettere. Il tema è perfetto, Deborah, per cuore e denari, perché ci fa parlare di costi, di guadagni, sia dal punto di vista della salute e quindi assolutamente in tema con essere e benessere, che da quello economico e di risparmio salva danaio. Un pacchetto di sigarette non costa meno di 4 euro. Credo di essere rimasta anche un po' indietro, perché non fumando non conosco neanche questi prezzi, credo che siamo ormai vicini ai 5 euro. Pensate a quanti soldi se ne vanno in un anno se si è fumatori accaniti. Ho fatto anche qualche calcolo, ho fatto un confronto anche con la borsa, e poi lo racconteremo anche questa curiosità, Nicoletta. E qua in studio con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Paolo Pozzi, pneumologo del Centro Antifumo dell'Istituto dei Tumori di Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Ecco, lei che lavora in un centro antifumo, come ha letto questa notizia, questa stretta sulle sigarette? Immagini shock, aiuteranno? Allora, la direttiva ovviamente è stata accolta con piacere, perché integra quello che da anni si cerca di fare e di portare a livello europeo. Sono parzialmente d'accordo con quello che è stato detto precedentemente sulle campagne, sull'impatto delle campagne shock, perché credo che in una certa popolazione di fumatori, quelli che sono conflittuali con se stessi, che forse vorrebbero smettere, che stanno cercando un inizio, qualche cosa che la spinta, è possibile che questo possa avere un impatto. Sa, dottor Pozzi, che insieme al dottor Roberto Boffi, che lavora nel suo stesso centro, noi abbiamo fatto un reality per smettere di fumare, lo dico anche ai nostri ascoltatori, e ancora ascoltatori di Essere Benessere ci scrivono dicendo: abbiamo smesso con voi. Ogni volta che io affronto una puntata sul fumo, mi auguro sempre di convincere magari qualcuno. Allora, se l'idea ve la state accarezzando, ma se volete proprio fare il primo passo con noi, chiamateci 800 24 00 24. Dottor Pozzi. Sì, certamente l'immagine shock deve essere accompagnata dai messaggi positivi. Smettere di fumare è una scelta di vita positiva, è una bellissima scelta di vita che ogni fumatore dovrebbe provare a percorrere. Io stesso sono un ex fumatore, quindi posso fare, diciamo, outing su questo, e quindi questo deve essere certamente, la relazione con gli aspetti positivi deve guidare anche quindi il colloquio. Quindi non solo il polmone annerito o il dente marcio o la ruga, l'immagine, ma anche sapere che si svolta. E smettendo ci sono dei vantaggi immediati di cui parleremo tra poco. Ma io, dottore, vorrei capire che cosa fa con quella specie di cartoncino, un regolo tipo? Sì, cos'è? Non è proprio quello con cui si andava alle scuole elementari noi ai nostri tempi nel giurassico, però è una cosa molto carina. Cosa ha portato? Non è certamente il regolo delle elementari, però permette di fare bene i conti. Però l'avete chiamato regolo lo stesso. L'abbiamo chiamato regolo perché ad un certo punto ci permette di regolare, diciamo, i conti con il nostro fumatore. Ci permette di dire al fumatore quanto sta spendendo in base al numero di sigarette che fuma e quanto risparmierebbe nel giro di un mese piuttosto che 10 anni. Ci dia subito la cifra shock allora, Nicoletta, ce la facciamo dire? Cosa volete? Mese o 10 anni? La cosa più scioccante che ha. Ok, in 10 anni ogni fumatore risparmia 17.000 euro se fuma 20 sigarette. Diventano 35.000 euro se uno fuma 40 sigarette al giorno. L'acconto di una villa. L'acconto di una bella casetta a Milano, sì, magari un po' più importante. Fermi qua allora. Fermi. Se fumate, c'è un numero verde che vi aiuta a smettere oggi. E soprattutto c'è un esperto che vi fa i conti in tasca. Dite quante sigarette fumate e il dottor Pozzi, che è pneumologo, oltre a sottolineare i vantaggi di questo, dell'investimento di smettere di fumare, vi sottolineerà anche quanto potreste risparmiare. Ma non solo, a proposito appunto di quanto spendono le famiglie anche per fronteggiare questa abitudine magari di qualche componente della famiglia, le associazioni dei consumatori hanno deciso da qualche tempo a questa parte di monitorare con più attenzione quello che accade appunto in questo campo, e sono diventate molto sensibili anche al tema del fumo, ma direi sono diventate più sensibili al tema delle dipendenze in generale. Allora io saluto e ringrazio per essere con noi Lamberto Santini, presidente dell'Associazione dei Consumatori ADOC. Buongiorno Santini. Buona giornata ai radioascoltatori e a voi della redazione. Ci inquadra con qualche dato la realtà dei fumatori in Italia e le spese che sostengono per la bionda, e perché adesso l'Associazione dei Consumatori si occupa anche di questo? Ma noi, soprattutto in un momento così difficile per il paese, per le famiglie, stiamo monitorando ormai da tempo questi percorsi anomali, perché a nostro avviso alcuni dati shock, poi credo che il dottore li saprà benissimo, 700.000 morti sono legati al fumo nell'ambito UE, e questo è un dato che va messo nei costi, perché al di là del pacchetto, noi abbiamo fatto i conti, come lei Deborah, 5 euro medio a pacchetto, mensilmente viene a costare 1679 euro, praticamente uno stipendio nell'arco dell'anno. In 5 anni 8.000 euro e in 10 come insomma cifre da capogiro che ci mandano in fumo la salute e anche mettono vanno in tilt anche i nostri risparmi. E in più il dato eclatante è che poi alla fine le strutture sanitarie, questo non è egoismo ma è bene porlo questo tema, un fumatore accanito ma anche un fumatore normale eccetera poi costa alla struttura sanitaria pubblica. Certo. A questo proposito, voleva a proposito di costi sanitari intervenire il dottor Pozzi. Sì, sì, volevo solo sottolineare che se noi oggi togliessimo le sigarette allo Stato italiano, i mancati introiti andrebbero a pareggiarsi con i costi sanitari diretti sostenuti dal nostro sistema sanitario, e questo al tempo zero. Ovviamente poi ci sarebbe tutto il guadagno che ne deriva sul medio e lungo termine. Certo. Mi chiedo anche di questo conflitto di interessi, adesso mi viene in mente, tra uno Stato che da una parte deve prendersi cura della propria popolazione malata per questo problema, dall'altra parte è monopolista per la vendita appunto delle sigarette nel nostro territorio, dottor Pozzi. E non solo, sì, lei Deborah parlava anche di questo meccanismo in un momento di crisi, anche di l'istigazione, il gatto e la volpe sempre pronti a mettere sotto terra le monete d'oro. Pensiamo al gioco, al tema delle ludopatie e a tutto questo percorso in cui lo Stato c'è sempre però. Allora bene. Noi sosteniamo come ADOC in particolare che almeno, visto che la cosa è impossibile eliminarla subito, tutta una serie di introiti che lo Stato acquisisce vengano rimessi in termini di maggior investimento per la sanità, per la ricerca e soprattutto per combattere questi percorsi. Certo, grazie. Grazie Santini, devo ridare un attimo la linea a Nicoletta. Perché voglio dare la parola a Rodolfo che ci chiama da Roma e Ilario da Bergamo, perché invitiamo i nostri ascoltatori a chiamarci e vogliamo sentire soprattutto la loro voce. Rodolfo. Buongiorno. Buongiorno. Ce l'ha fatta? Sì, ma la storia mia è carina perché comunque ho già sentito quello che avete detto, ripete un po' quel che avete detto. Io ero un forte fumatore, 2 pacchetti al giorno dall'età giovanile, e adesso ho quasi 70 anni. Parecchio tempo fa, ho smesso improvvisamente di fumare per 15 anni. E sì. Poi mi sono trovato dopo 15 anni a parlare con un altro mio amico accanito fumatore e cercavo in tutti i modi, dico ma guarda smettila perché non fa bene eccetera, e poi oltretutto risparmierai chissà quanto, e lui mi disse ma quanto, e allora carta e penna ho fatto un calcolo insieme a lui e all'epoca risultò un risparmio di circa 60 milioni di lire. Che e a quel punto sono andato a casa, ho parlato con mia moglie e ho detto che volevo levarmi quello sfizio e non me l'ero mai levato, e ho comprato una macchina sportiva. Fantastico Rodolfo, ce l'ha ancora questa macchina? Se viene a Milano ci porta a fare un giro? A Roma. E vabbè, capiterà che verrà a Milano, no? Con questa... ancora, ormai è una macchina d'epoca quasi. Va bene, allora veniamo con Debora a fare un giro. Grazie Rodolfo, è una bellissima storia. Ilario da Bergamo, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno Ilario. Niente, io la mia esperienza, io sono un fumatore, ho provato diversi metodi anche per smettere di fumare, libri piuttosto che recarmi al centro di fumo tempo indietro, però sono mai riuscito a smettere di fumare. Ho provato anche con la sigaretta elettronica, infatti a questo dicevo, potrebbe essere una differenza passare dal fumo di sigaretta alla sigaretta elettronica? Bella domanda, noi abbiamo dedicato anche un'intera puntata per capire se la sigaretta elettronica poteva essere un ponte, poteva essere un aiuto per smettere di fumare. Ci sono degli studi in corso. Dottor Pozzi. Allora, buongiorno. Sicuramente la sigaretta elettronica si sta dimostrando uno strumento valido per ridurre quantomeno la quantità di fumo che un fumatore appunto fuma, il numero di sigarette che uno fuma. Non siamo ancora riusciti a capire qual è il valore come strumento per smettere di fumare, anche perché la commercializzazione di queste sigarette pone una duplice via, la via di uno strumento utilizzabile anche come forma, diciamo, che può anche creare dipendenza, e invece uno strumento che può liberare dalla dipendenza. Quello che sappiamo oggi, recentemente è stato pubblicato a settembre un grosso studio su una prestigiosa rivista che si chiama Lancet, la quale dice che se vogliamo utilizzare la sigaretta elettronica come strumento per smettere di fumare, dobbiamo utilizzare quella che contiene la nicotina. Per cui questo tipo di sigaretta elettronica si avvicina molto alla terapia nicotinica sostitutiva. La sigaretta elettronica che non contiene farmaco, che non contiene nicotina, fa smettere di fumare tanto quanto il metodo alla forza di volontà, sostanzialmente. 800 24 00 24 è il numero verde per continuare a prenotare i vostri interventi. Poi Nicoletta, leggiamo anche le... i messaggi. Sì, sono decine, decine, decine questa mattina. E poi vogliamo anche rientrare facendovi ascoltare che cosa si guadagna nell'immediato, nelle 24 ore, a smettere. Cuore e denari. E siamo tornati insieme in questa puntata di Cuore e denari in cui diciamo la verità, facciamo proprio i conti. Il nostro ospite, il dottor Paolo Pozzi dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, si è portato un regolo. Voi dovete chiamarci all'800 24 00 24, dirci quante sigarette fumate e il dottor Pozzi vi dirà esattamente qual è la vostra spesa. Ma faremo di più, perché a Cuore e denari si fa anche di più, Deborah. Si fanno due conti e si cerca di capire quanto si risparmia smettendo, ma soprattutto investendo la stessa cifra che si risparmierebbe appunto non fumando più, investendola alternativamente quanto si potrebbe guadagnare. Quindi abbiamo fatto dei calcoli interessanti. I vantaggi per smettere di fumare ci sono, lo sapete che il fumo, lo abbiamo ripetuto tante volte, interferisce negativamente sul 95% degli apparati del nostro organismo. Ma ho una domanda per voi, una domanda che ci è stata suggerita dalla lettura di un libro che mi piace molto, che si chiama 101 motivi per non fumare di Fabio Beatrice e Joan Rossi Mason. La domanda che vi faccio è: che relazione c'è tra la salute dei capelli e il fumo? Vi aiuto? Il fumo naturalmente danneggia anche i capelli, ma perché? Volete spiegarcelo? 800 24 00 24. Apriremo naturalmente le librerie di Essere Benessere e di Salva Danaio e vi faremo arrivare a casa il libro al primo ascoltatore che ci darà la risposta esatta al nostro numero verde e al primo che ce la scriverà via SMS al 349 238 6666. Ma allora andiamo a sentire perché fumare ci fa male, ma soprattutto perché smettendo possiamo guadagnare subito. Dopo 20 minuti, la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca tornano nella norma. Dopo 24 ore, i polmoni cominciano a ripulirsi dal muco e dai depositi lasciati dal fumo. Dopo 2 giorni, l'organismo si è liberato dalla nicotina e ricomincia a recuperare gusto e olfatto. Dopo 3 giorni, si comincia a respirare meglio e si recupera energia. Dopo 2 e 12 settimane, la circolazione del sangue migliora. Dopo 3 e 9 mesi, il miglioramento nella respirazione si fa più marcato, tosse e sibili si riducono. Dopo 1 anno, il rischio cardiovascolare si è dimezzato rispetto a quello di chi continua a fumare. Dopo 10 anni, il rischio di tumore del polmone, in molti casi, è tornato pari a quello di chi non ha mai fumato, o comunque è dimezzato. Voilà, dottor Pozzi, però smettere di fumare costa. Per chi non smette dall'oggi al domani, con una grande forza di volontà, e anche quello costa, no? Insomma, bisogna investire, come dice Deborah, dei soldini per liberarsi da questa dipendenza. Sto pensando al ticket, no? Per entrare in un centro antifumo. Facciamo 2 conti anche su questo? Volentieri. Allora, con le dovute differenze tra regione e regione, certo. Comunque nella nostra regione smettere di fumare una prima visita al nostro centro antifumo costa circa 23 euro. Mm. Il percorso ne prevede 4, quindi possiamo calcolare all'incirca un 100 euro su base annua, sì, se una persona decide di iniziare questo percorso. Questo percorso mette il fumatore a confronto non solo con il medico, ma con il team di psicologi del centro antifumo, che provvedono a telefonare o a seguire, diciamo, a contattare il nostro fumatore almeno 7 volte nel corso del loro tentativo per smettere di fumare. In più c'è da sostenere l'eventuale costo per un farmaco che aiuti il fumatore a smettere. E lì non è rimborsabile, vero? Purtroppo in Italia non siamo ancora arrivati alla rimborsabilità di questi farmaci. C'è da dire che molti di questi farmaci decuplicano la possibilità di farcela anche già al primo tentativo, e il costo è circa di 100 euro al mese. Tenete presente che noi consigliamo questi farmaci per 2-3 mesi. Quindi alla fine abbiamo circa 300 euro, quindi il costo sostanzialmente di un mese di fumo di un fumatore di 20 sigarette. Deborah, tu che sai fare i conti? Adesso ne faccio uno molto interessante. Allora, ho controllato quanto sia cresciuta la borsa italiana, tanto per monitorare quella più vicina a noi, nell'ultimo anno ha fatto più 18%. Nell'ultimo anno un fumatore di un pacchetto di sigarette al giorno ha speso, dottore, 1.600 euro, avevamo fatto questo calcolo 1.600. Prima. Allora, intanto, non fumando, in un anno avremmo già risparmiato questi 1.600. Se questi 1.600 contemporaneamente li avessimo investiti in borsa, in Italia, questi 1.600 avrebbero fatto più 18%, quindi circa 300 euro a spanne, e quindi in tasca ne avremo 1.900 invece di averne fumati 1.600. Cioè il primo anno vi siete ripagati i 3 mesi in cui avete usato la terapia per smettere di fumare. E insomma, no, siccome c'è un ascoltatore che ci chiede, che non sa proprio come uscire da questo vizio, noi abbiamo tentato quantomeno di incoraggiarli in questo modo. Attenzione, non è un vizio, scrive l'ascoltatore, ma è una dipendenza. Uso e il questo termine sbagliato. No, tu no, ma questo perché mi dà il lancio, perché voglio che i nostri ascoltatori sappiano che sulle pagine del programma di Cuore Denari abbiamo messo un test, che è il test di Fagerström, pronuncio bene? Giustissimo. Per capire quanto siamo dipendenti. Ci sono delle domande molto semplici, andate e vedete, e poi già lì uno pensa, perché tante volte chi fuma dice: ma io posso smettere quando voglio, non sono dipendente. Fate il test e andiamo a Mantova. C'è Gaetano e poi c'è Antonio da Lecco. Buongiorno a tutte e due. Gaetano, benvenuto. Benvenuto, grazie. Benvenuto a Cuore Denari, che tra le porteremo salute e danari e fortuna. Mi dica. Magari. No, io volevo intervenire per cui io sono un fumatore accanito e fumo dall'età che avevo 13 anni, ne ho 51 adesso. Credo che assolutamente non sia un deterrente nelle scritte e neanche le immagini, per un fumatore accanito parlo. Sì. Assolutamente, io credo che più che altro bisognerebbe già incominciare da un'educazione familiare. Certo. Nel senso che io da piccolino, mio papà fumava, mia mamma fumava, i miei nonni fumavano, in casa, non fuori. Quindi, perché non si sapevano, Gaetano, e quindi lo chiedo anche al dottor Pozzi, danni da fumo, e quindi non se ne aveva la percezione, quindi ha ragione Gaetano. Eppure i nostri ragazzi, anche se ci sono state delle campagne, anche se in casa si sostiene, si dice, si invita a non fumare, continuano a fumare, Gaetano, anzi iniziano sempre prima. Poi tra l'altro i genitori di questi ragazzi, che tuttora ci sono queste campagne, quindi si sa i danni che fumano, ma fumano, perché io vedo, vado in casa da amici, hanno i bambini. Quindi Gaetano, fumano. Lei che è un fumatore accanito, mi mandi un messaggio, mi mandi un messaggio, faccia lei lo shock di oggi. Gaetano, vada. Il mio messaggio, che lo spot che avete fatto prima è giustissimo, perché io sono un autista, faccio tante ore di guida e io ho notato la differenza, questo devo essere sincero a dirlo, che quando fumo anche, ma bastano anche 10 sigarette in meno di quello che fumo, io arrivo a sera con un'altra energia. Gaetano, io aspetto. Me lo dica bene, 10 euro, 10 sigarette in meno già la fanno sentire meglio. Pensi se smettesse? Lo so, però ci pensi? A me piace fumare. Fino adesso devo dire che ogni 2 anni faccio gli esami, forse il dottore sicuramente saprà il dottore è preparato, ma Gaetano devo salutarla. Fino adesso forse prendere uno spavento, che non sia troppo tardi, magari. Grazie Gaetano, un abbraccio. Antonio da Lecco, buongiorno. Pronto? Buongiorno Antonio, di essere rapido, perché abbiamo tantissime telefonate. Sì, no, volevo riferire la mia esperienza riguardo appunto alle campagne shock. nel senso che io una dozzina d'anni fa smisi di fumare, anche penso soprattutto dopo aver visionato una pubblicità Progresso che tra virgolette non era italiana ma era inglese, sì. Facevano, mi ricordo che facevano passare la sera questa serie di... Cosa aveva questa? Qual era l'immagine? L'immagine era abbastanza forte, adesso non so se... lo può dire, possiamo dire tutto, vada? Lo posso dire, ma sì. Era praticamente su un tavolo operatorio un medico metteva a confronto i polmoni di un, fumatore con quello. Un fumatore con quelli di un non fumatore. E questo l'ha aiutata a smettere. Antonio, devo salutarla, sono breve. A proposito di immagini shock, lo spot che ha fatto smettere di fumare 100.000 persone in un batter d'occhio, sono Terry ed ero una fumatrice, lo trovate sulla pagina del nostro programma, ma c'è Deborah che smette anche solo leggendo un libro. E in linea con noi abbiamo Francesca Cesati, responsabile dell'Allencar Italia. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Ci sentiamo, Francesca, dopo la viabilità, le informazioni sul traffico, molti me lo stanno scrivendo, ho letto e ho smesso. Che cos'ha di straordinario, di particolare il libro di Allencar, che ricordiamo era un fumatore, ma oltre al libro c'è di più, c'è un corso a proposito di costi. Cuore e denari. Prima che finisca questa sigaretta, tu mi dirai di sì. E riprendiamo a parlare di fumo, di sigarette, per provare a smettere. Ci si guadagna, ma smettere anche costa. C'è chi smette con la propria forza di volontà, c'è chi smette leggendo un libro. Tra i libri più famosi, tra i libri che vengono anche citati più spesso dai vostri sms, c'è sicuramente il libro di Allencar, ex fumatore che ha trovato, se vogliamo, un metodo particolare, è riuscito a toccare le corde dei fumatori. Qual è il segreto di questo libro, Francesca? Anche tu, allora, ex fumatrice. Esatto. Allora, buongiorno a tutti. Direi che proprio il fatto di essere stato un fumatore ha permesso a Car di vivere il problema in prima persona e di trovarne la soluzione. E alla fine, detto molto in sintesi, lui capì che il porre attenzione al fatto che doveva smettere perché gli faceva male non serviva assolutamente nulla, e quindi ho delle riserve sul fatto di mettere delle immagini tremende sui pacchetti di sigarette. Spostò la sua attenzione su tutti i motivi per cui le persone pensano di fumare e le vide sgretolarsi davanti ai suoi occhi, esaminandole attentamente. Si rese conto che fondamentalmente la gente fuma per cercare di sentirsi come un non fumatore si sente sempre. Questo un po' in sintesi è tutto il percorso. Questa mi piace, questa considerazione mi piace, ma Francesca, stiamo parlando dei costi che dobbiamo affrontare per smettere di fumare. C'è il libro, allora, ma voi... Il libro che costa due pacchetti di sigarette fondamentalmente, altrimenti il metodo è nato come una chiacchierata in realtà, cioè Cari iniziò a tenere dei seminari a casa sua e poi era tale il suo successo che decise di trasporlo in forma cartacea. E noi teniamo questi seminari. Il costo del seminario è di, in questo momento è di circa 270 euro perché abbiamo un'offerta per le coppie. Sì. E che cosa comporta? La gente viene da noi alle 2, se ne va alle 8 e non fuma più. Quindi tutto si svolge in... Voi avete una formula di soddisfatti e rimborsati. Dottor Pozzi, mi piace mettere a confronto. Allora, l'importante è smettere, quindi seminari e anche nei centri antifumo c'è questo supporto anche psicologico. Assolutamente. I percorsi all'interno di un centro antifumo possono essere individuali, come quello che seguiamo all'Istituto Nazionale dei Tumori, ma anche come terapie di gruppo, quindi come viene fatto in tantissimi centri antifumo, penso alla Lega Italiana per la Prevenzione dei Tumori e così via. Credo che la dinamica di gruppo è molto utile nel confronto, quindi il fumatore che si mette in gioco con altri non si vergogna perché si sta trovando in un consesso di persone che in fondo hanno lo stesso problema. Certo. Devo dire anche però che ci sono alcuni fumatori che preferiscono il colloquio individuale. Noi, quello che a me, tra virgolette, non me ne voglia la signora, non piace di Carr è che è un metodo un po', diciamo, che va bene in media. Noi, come centro antifumo, cerchiamo di... puntiamo molto sulla personalizzazione, ognuno deve trovare la sua strada. Naturalmente noi presentiamo tutti i metodi possibili. A Francesca Cesati chiedo, voi avete questa formula soddisfatti o rimborsati, quante persone hanno smesso con voi, oppure quante quote dovete rimborsare in media? Allora, la maggior parte delle persone smette alla fine di questo primo incontro, e poi ci sono altri due seminari di supporto che sono gratuite, comprese nel prezzo iniziale, e diamo una garanzia di 3 mesi. Sì. Sulla base di questa garanzia noi possiamo dire, questo vale per tutti i centri Allan Carr nel mondo, che la percentuale di persone che hanno richiesto il rimborso si aggira intorno al 6-7%, il che significa che nell'arco di 3 mesi circa il 93% delle persone smette di fumare, sulla base di questa garanzia. Quindi voi avete aiutato persone, come lo fanno anche i centri antifumo, come lo facciamo noi da sole, a risparmiare soldi e a guadagnare salute. Dottor Pozzi, quando però un fumatore può essere considerato davvero ex fumatore? Quanto tempo di astensione dal fumo, di cessazione del fumo è necessaria? Noi consideriamo almeno un anno. Almeno un anno. Il primo anno è il più difficile per il fumatore. Grazie Francesca Cesati per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata a voi. Grazie. Ci sono tantissimi messaggi, c'è chi sta utilizzando... Breaking news. Oggi è la volta del Nobel per la chimica, assegnato pochi istanti fa a Martin Karplus, Michael Levitt e Arie Warshel. Il Nobel per la chimica ha premiato i teorici che hanno sviluppato modelli in grado di descrivere reazioni chimiche complesse utili per l'industria e per sviluppare nuovi farmaci. Maggiori informazioni fra poco nel GR. Eccoci qua, Nicoletta, d'altronde la settimana dei Nobel, lunedì tocca a quelli dell'economia, te lo dico già, per cui faremo il blitz anche noi a cuore denari su questo. Allora, no, stavo solamente così monitorando un po' i messaggi, ne stanno arrivando a decine, tutti gli ascoltatori ci raccontano come hanno smesso, c'è chi ha utilizzato il metodo di Allan Carr, chi è andato nel centro antifumo, chi si è appoggiato solo ed esclusivamente sulla propria forza di volontà, e c'è chi ci racconta anche che ha cominciato quantificando esattamente il risparmio che avrebbe portato nella propria famiglia, appunto, interrompendo. Tu che leggi, sì. Ci sono dalla regia, qualcuno è riuscito a scoprire la relazione? No, Laura Vanossi, che è molto attenta alla salute dei suoi capelli. Mamma mia, stamattina è nervosissima perché dice che sono un po' crespi. Che non è vero, peraltro, che sembra un po' Pocahontas. Esatto, sì. Deve scoprire che cosa, Laura? Vero che non c'è, dalla regia nessuno ha scoperto la relazione tra capelli e però negli SMS sì. Dai, cioè, allora? Te ne leggo qualcuno? Sì. A causa della scarsa ossigenazione del cuoio capelluto, ci scrive Fabio da Pescara, che non è per la verità il primo, ma molti altri non si firmano. C'è chi scrive perché indebolisce il bulbo? Sì. Allora, i due libri abbiamo la possibilità di darli ai primi due ascoltatori che sono adesso, stati più bravi via SMS. Esattamente. Allora, un'ultima cosa prima di salutarci per questa prima pausa: per limitare i costi sulla salute c'è, come abbiamo raccontato nel corso della puntata, chi ha scelto di passare alla sigaretta elettronica, una vera e propria moda, in qualche maniera anche un boom che ha portato anche tante persone ad investire su quello che è stato ribattezzato il fumo 2.0, vedendoci anche un'opportunità professionale. Però sta cambiando qualcosa, perché stanno moltiplicandosi gli annunci che mettono in vendita i negozi di sigarette elettroniche. Rapidamente ce lo racconta Andrea Polo di immobiliare.it. buongiorno Andrea, che buongiorno. Succede? In un minuto di tempo. Succede che fondamentalmente ci siamo fatti prendere la mano, probabilmente, quindi fra la fine del 2012 e l'inizio del 2013 si sono aperti tantissimi negozi su strada, troppi rispetto a quella che era la domanda, e oggi, vuoi per la tassazione cambiata, vuoi per le varie direttive, non si capisce bene se devono essere equiparati a farmaci, a tabacchi o quant'altro, uno dietro l'altro questi piccoli microimprenditori stanno chiudendo. Il risultato è che ci sono centinaia di negozi messi in vendita anche sul web, chi vende il locale, chi vende la licenza, però il dato è che da un anno all'altro, ad esempio, le richieste di nuove aperture di questo genere di esercizio sono diminuite del 99%. Drasticamente ridotta. Grazie ad Andrea Polo. Noi ci fermiamo per la prima parte di Cuore e Denari. Nicoletta, ci risentiamo tra poco, adesso diamo la linea. Salutiamo anche il nostro esperto. Molto bene. Grazie al dottor Pozzi per essere stato con noi. La ringraziamo, la salutiamo anche per essere venuto proprio a trovarci a Cuore Denari. Un'ultima domanda: la direttiva dice che non si possono. Cuore e Denari. Eh sì, buona giornata ancora da Deborah Rosciani e da Nicoletta Carbone. Siamo già alla terza puntata e pensa, sono ancora riuscita a non farti parlare di spread. Guarda, lo so, temevo questo momento e sapevo che sarebbe arrivato prima o poi. È una terapia d'urto anche per me. A proposito di terapia d'urto, quella di cui abbiamo parlato nella prima parte del nostro programma, completiamo un po' il discorso prima di partire con il prossimo approfondimento. Lo completiamo e lo chiudiamo subito dicendo che il tema di oggi ha mandato veramente in tilt, in fumo i nostri centralini. Abbiamo chiesto al dottor Paolo Pozzi di fermarsi con noi per rispondere alle tante domande che non siamo riusciti a dare voce nel corso della trasmissione, quindi scrivete a cuoredenari@radio24.it oppure sulla pagina Facebook di Cuore Denari. Dalle 12.09 ora alle 12.45 il nostro esperto è a vostra disposizione. Scrivete e avrete una risposta. Grazie Nicoletta. Allora andiamo avanti con il prossimo approfondimento. Abbiamo toccato, come vi ricordavamo, il tema delle terapie d'urto nella prima parte del programma come modalità per affrontare una situazione della vita che va assolutamente cambiata. Senza voler fare una relazione che magari a qualcuno potrebbe apparire non pertinente, possiamo ricordare però che anche l'Italia un paio d'anni fa è stata obbligata dai mercati finanziari ad una terapia d'urto per rimettere in sesto i suoi conti pubblici. Sapete bene perché vi abbiamo letteralmente ossessionato con questo argomento. Da almeno due anni l'emblema di questa terapia d'urto è rappresentato dallo spread, cioè il differenziale di rendimento fra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. In questo periodo viaggia intorno ai 250 punti base, un po' sopra questa mattina, livello molto ben tollerato dagli investitori internazionali che ancora affollano le aste organizzate dalle Tesoro. Proprio questa mattina il Ministero dell'Economia ha messo sul mercato un BTP che non aveva mai offerto, una scadenza a 7 anni. Per spiegarvi queste novità con noi una voce che sentirete molto frequentemente nella nostra trasmissione, quella di Moria Longo del Sole 24 Ore. Ben trovato, ciao, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Pronti, via. Salva Danaio. These are not just statistics to me. We know that long-term unemployment is devastating to workers and their families. With employment so far from its maximum level and with inflation running below the committee's 2% objective, I believe it's appropriate for progress in the labor market to take center stage in the conduct of monetary policy. Questo non è un altro quiz per i nostri ascoltatori, anche se vedo la faccia un po' sorpresa di Moria Longo. Non l'hai riconosciuta? Janet Yellen. Ah, hai visto? Allora, 67 anni. Ho cosa vinto? Il libro. Hai vinto il libro. Magari ti regaliamo così una visita alla Federal Reserve a Washington. Si tratta della numero 2 attuale di Ben Bernanke, che è il numero 1 adesso della Federal Reserve, ma da gennaio la Yellen appunto assumerà la guida dell'organismo di Washington. Barack Obama, il presidente, l'ha già detto ieri che ha fatto questa designazione, ma l'annuncio formale avverrà appunto questo pomeriggio. Non potevamo non iniziare con lei quest'ultima parte di Cuore Denari. Noi siamo una trasmissione in rosa, d'altronde Nicoletta, ci abbiamo fatto anche il nostro, la nostra prima parte del programma. Significa anche però questa figura continuità per la politica monetaria, per la gestione economica del paese. Moria, che ne pensi? Sì, assolutamente, così pensano i mercati. I mercati erano terrorizzati se al posto suo fosse stato nominato Lawrence Summers. Tant'è vero che quando girava la voce di Lawrence Summers, ex segretario del tesoro all'epoca di Clinton, consigliere di Obama, i mercati erano veramente terrorizzati perché lui ha una fama di essere più restrittivo nella politica monetaria. Ora che viene nominata Janet Yellen, tra l'altro la prima donna alla guida della Federal Reserve, della storia proprio, i mercati sono tranquilli perché si sa che lei continuerà la politica del suo predecessore, l'attuale presidente Bernanke, quindi la politica di stampare dollari, essere molto accondiscendente coi mercati, dargli diciamo lo zuccherino che ai mercati piace tanto. Sanno che lei sarà molto prudente nel ritirare questo zuccherino e quindi questo tranquillizza molto. Lo zuccherino anche tra i mercati, vedi Nicoletta, che come dire il glucosio circola anche in altri lidi, non solo nelle tue trasmissioni. Il vero motivo per cui abbiamo chiamato però Moria Longo questa mattina è commentare appunto questa notizia relativa a questa iniziativa del Ministero dell'Economia che sta lanciando il nuovo BTP a 7 anni. Peraltro chiediamo anche ai nostri ascoltatori se hanno investito in passato, pensano di investire in titoli di Stato, oppure se non conoscono affatto questi strumenti. Se volete intervenire sull'argomento avete 20 minuti di tempo per farlo, 800 24 00 24, e al primo ascoltatore che chiama un libro guida sui titoli di Stato del Sole 24 Ore. Che cos'è questa iniziativa del Ministero dell'Economia, Moria? Ma il Ministero dell'Economia, premesso che si trova a gestire una montagna di debito da 2.000 miliardi, quindi deve trovare il modo per gestire in maniera ottimale. Pensate che soltanto l'anno prossimo sono previste emissioni di titoli di Stato per rimborsare debiti in scadenza per 470 miliardi, quindi si tratta di cifre grosse. Cerca ogni volta di trovare modi per dare agli investitori ciò che gli investitori pensa, ciò che il Tesoro pensa che gli investitori piace. È un po' una politica, diciamo, in un certo senso di marketing. Allora, in questo periodo c'è una forte domanda per i titoli di durata intermedia, cioè intorno ai 5 anni. Vi do due numeri per capire perché. Pensate che un BTP a 3 anni rende il 2,27%, un BTP a 5 anni il 3,29%, quindi di fatto c'è un punto percentuale in più per soltanto 2 anni di, diciamo, di rischio aggiuntivo. Dal 5 anni al 10 anni il salto è altrettanto, cioè di un punto, cioè dal 3,29 al 4,34, quindi c'è un altro punto percentuale per 5 anni però aggiuntivi di rischio. Quindi gli investitori sono più incentivati a comprare un titolo a 5 anni perché è quello che dà il bilanciamento tra rischio e rendimento ottimale. Se fossimo al supermercato, il miglior rapporto qualità-prezzo. Esattamente, quello con il tagliandino sotto, comprate questo. Quindi gli investitori stanno andando su queste scadenze intermedie, infatti sui 5 anni, BTP a 5 anni, ma anche di altri paesi c'è forte domanda. Allora il Tesoro ha pensato di soddisfare questa domanda con un titolo un pochino più lungo del BTP a 5 anni, ma un pochino più breve del BTP a 10 anni, quindi una cosa intermedia. Tra l'altro è il primo Stato che metterà in maniera continuativa i titoli a 7 anni, perché non esistono, ci sono negli Stati Uniti ma non esistono nel resto, in Europa, se non in emissioni spot singole, e quindi è un po' la scommessa dare agli investitori ciò che agli investitori piace. Certo. Perché il problema è che il Tesoro deve continuamente mettere il titolo di Stato per rimborsare. Quindi deve per forza accontentare gli investitori. Tra l'altro c'è un ascoltatore che chiede, parlate di cifre lorde o nette, i rendimenti che dai tu sono quelli lordi? Sono lordi, sono lordi naturalmente. Sì. Sai che a inizio settimana abbiamo iniziato una scuola di risparmio, Moria? Sì, e la nostra scolaretta è... Sono io, no, oddio. Non metterti le mani ma nei date capelli. Ma anche compiti a casa. Certo. Sì, hai il compito a casa, poi ti racconteremo in che cosa consiste, ma lo stai già facendo, Nicoletta? Sì, praticamente devo capire quale percentuale del mio stipendio è strettamente indispensabile per il mantenimento della famiglia. In modo tale da capire se c'è anche qualcosa che si può investire in un BTP a 7 anni come quello che è stato emesso stamattina. Stiamo facendo i compiti a casa, io naturalmente ho chiesto anche a mio marito di darmi una mano, alle figlie, insomma stiamo discutendo. Perché... A me tocca andare a scuola di benessere, non credere. No, però tu mi suggerisci, così io quando rincontro Lupotto... Che il nostro consulente che tu mi dai la risposta giusta, io prendo 10. Vai. La risposta giusta è più risparmi, meglio è. Ecco, esatto. Però, però attenzione, però... perché in Italia stanno aumentando i risparmi, dopo anni di decrescita stanno diminuendo i consumi. Vuol dire che gli italiani adesso, a parità di stipendi, anzi con stipendi leggermente in calo, risparmiano di più e preferiscono non consumare. Mentre nella prima fase della crisi si tendeva a consumare risparmiare risparmi. Meno, poi anche ad attecchire risparmio degli adesso anni adesso passati. Sta aumentando il risparmio, questo significa aumenta anche l'incertezza. Caro Moria, ritorniamo al nostro BTP, non a quello di questa mattina. Peraltro abbiamo già dei risultati sull'andamento di questa operazione. Libri aperti, il Tesoro ha intenzione di raccogliere qualcosa tra i 3 miliardi, o no, mi sbaglio cifra. 5 miliardi. Sì, però non danno mai una cifra. Diciamo che non sarà messo in asta come tutte le volte, perché essendo un BTP nuovo hanno chiesto a un gruppo di banche di collocarlo direttamente agli investitori. La domanda attualmente è già sui 6 miliardi e mezzo, quindi è già superato. Però appunto le banche che terranno i libri ordini aperti finché non ci sarà una quantità di domanda sufficiente per emetterlo e quindi dare agli investitori quello che serve e garantire la buona riuscita dell'emissione. Nell'ultimo anno e mezzo il Ministero dell'Economia ha collocato per 4 volte anche il cosiddetto BTP Italia. Adesso c'è grande attesa per una nuova emissione che dovrebbe arrivare, se non ricordo male, almeno Maria Cannato lo ha promesso, entro novembre. Appunto, hai qualche notizia in più rispetto a questo? Perché molti ascoltatori che ci scrivono appunto ci chiedono informazioni. Sì, no, non ho notizia aggiuntiva, nel senso che Maria Cannata, che è il direttore generale del Tesoro, la persona che si occupa proprio di gestire questi 2.000 miliardi. La signora che siede sopra 2.000 miliardi abbondanti di debito italiano, noi la chiamiamo sempre così. Esattamente, purtroppo sono nostri debiti però. Ha promesso, assicurato che farà questa emissione entro novembre, per cui aspettiamo. È un'emissione che ha avuto molto successo nei mesi passati perché è la prima indicizzata l'inflazione italiana. Solitamente i BTP indicizzati all'inflazione sono indicizzati a quella europea, per cui noi che siamo in Italia non ci interessa molto, non ci copre il fatto che sia proteggersi dall'inflazione di altri paesi, perché è una media europea. Questa è indicizzata l'inflazione italiana, ha delle buone caratteristiche, ha avuto un grande successo non solo tra i piccoli risparmiatori ma anche tra quelli, diciamo, più istituzionali. Infatti c'era proprio un ascoltatore, che Giancarlo, che ci ha scritto chiedendoci la differenza fra entrambi, diciamo, gli strumenti, un BTP tradizionalmente indicizzato all'inflazione e il BTP Italia. Speriamo di averlo accontentato. Posso fare una domanda che forse non c'entra, ma sono andata a scuola di risparmio solamente una volta. Io sono una risparmiatrice che non ha proprio tanto tempo di controllare quello che succede sui mercati, però vorrei proteggere i soldini, come li chiama Deborah. I miei genitori, ricordo, mi hanno sempre detto che un titolo di Stato è un porto sicuro. Ma è ancora così o no? Temo che i tuoi genitori si sbagliassero, nel senso che la storia è ciclica. Io, quando ho iniziato questo lavoro al Sole 24 Ore, alla fine anni 90, mi occupavo di paesi emergenti. Ricordo che il Fondo Monetario doveva salvare l'Argentina, paesi del Sud America. Il Brasile aveva uno spread a un certo punto di 1000 punti base, sembrava andato in default. Sono passati 10 anni, oggi il Fondo Monetario ha salvato la Grecia, la Spagna, l'Irlanda. Lo spread ce l'abbiamo noi, mentre il Brasile è diventato il miracolo economico degli ultimi 10 anni. Quindi la storia è ciclica. La Germania, oggi il paese più forte d'Europa, qualche anno fa era la malata d'Europa, non aveva crescita economica. Quindi nulla è sicuro, perché tutto cambia. Il monitoraggio tra le telefonate? Allora abbiamo in linea con noi Raffaele da Cernusco. Raffaele, buongiorno. Buongiorno Raffaele. Eccoci qua, ci dica tutto. Ecco, io volevo consigliare agli ascoltatori che secondo me l'investimento in BTP è il migliore in assoluto che ci sia adesso sul mercato. Perché? Mi fido? Dopo, sì, perché come rendimento rischio, a livello, anche a livello di obbligazione europea, no? Mi sembra che siamo italiani e conosciamo l'Italia. E quindi mi sembra abbastanza... Siamo un atto di fiducia. Sì, Raffaele. Sì. Però soltanto una domanda volevo fare all'esperto. Un mio amico mi ha detto che negli ultimi anni, forse l'era Monti, hanno messo una clausola sui BTP in caso di fallimento del paese. Per la quale praticamente il Tesoro dice ci tuteliamo, e qualora questo dovesse accadere rimborseremo, come diciamo noi in sostanza. Adesso non mi ricordo come si chiama quella clausola. Clausola di azione collettiva, altresì chiamata CAC. La CAC, esattamente. La CAC si chiama. Che non è un bel nome, ma... CAC? Ecco, visto che è divertente occuparsi di finanza, ma te l'avevo detto. CAC. Vabbè. Clausola di azione collettiva. Allora, rispondiamo intanto alla prima domanda di Raffaele. Quanti italiani oggi investono del debito italiano, Moria? Tanti, perché stanno diminuendo gli investitori esteri. Gli investitori esteri che fino a prima della crisi detenevano più del 50%, o circa il 50% del nostro debito pubblico, adesso sono intorno al 36%. Questo vuol dire che li abbiamo rimpiazzati. In gran parte sono state le banche, ma anche i risparmiatori. Io condivido quello che dice il signore. È vero, noi siamo italiani, per cui se l'Italia andasse in default avremmo ben altri problemi rispetto al nostro portafoglio di investimenti. Esatto. Per cui a quel punto non è... È giusto che ogni cittadino sostenga, anche se lo ritiene giusto, il proprio paese. È vero che i rendimenti dei titoli di Stato italiani sono più alti rispetto a quelli di altri paesi, ma c'è un motivo, perché appunto c'è un rischio implicito nell'Italia. Per cui l'investimento in titoli di Stato va benissimo. L'importante è non è essere consapevoli che non sono un porto sicuro, ma un rischio ce l'hanno, se no non darebbero un rendimento più alto di altri paesi. E poi bisogna non mettere tutte le uova in un solo paniere, come tu dici spesso. Per cui, sì, te l'ho già sentito dire altre volte. Perché io parlo anche di cibo, bisogna quindi faccio sempre queste similitudini. Sì. Senti, ma a proposito, è sicuramente un'eventualità che noi non vogliamo neanche lontanamente prendere in considerazione, però negli ultimi 2 anni è stata spesso, come dire, ricorrente anche come immagine, la bancarotta di uno Stato. Che cosa implicherebbe questa clausola di azione collettiva che ha ricordato l'ascoltatore? Ma è una clausola che è stata messa in tutti i paesi europei, implica che esattamente forse il Tesoro vorrebbe rinegoziare e stabilirebbe, come dire, di non rimborsare rinegozierebbe a secondo criteri suoi, appunto, il debito. Sì, esattamente. C'è una clausola che dà una salvaguardia al Tesoro, che dà una salvaguardia anche agli investitori, però dà appunto la possibilità di rimborsarlo in valute in maniera, diciamo, diversa, rispetto ai titoli di Stato precedenti. Posso leggere questo SMS che mi piace molto? Buongiorno Nicoletta e Debora, se voi aveste 28 anni, magari, intanto magari ne abbiamo pochi di più, quindi, e siamo quasi coetanei, e 10.000 euro in banca, che cosa fareste? Aiuto, per favore, non so a chi chiedere. E allora, ha trovato due sprovvedute su questo, però piene di esperti, circondate da esperti. Allora, sicuramente possiamo farci aiutare da Gianni Lupotto e gireremo appunto la domanda di questo ascoltatore o ascoltatrice appunto al nostro consulente, che gli farà indubbiamente tutto quel colloquio che è stato fatto anche a Nicoletta ad inizio di Cuore Denari, perché bisogna conoscere molto bene le caratteristiche di questo risparmiatore, capire che cosa vuole fare di questo denaro, se è in grado di poterlo mettere lì e dimenticarsene, perché allora in quel modo, Moria, tu puoi aiutarmi, avrà un determinato tipo di investimento. Se invece gli servono fra un anno perché magari deve pagarsi un corso di studi all'estero, deve allora sposarsi. Magari va accantonato in maniera diversa. Sì, assolutamente, quella che chiamano i tecnici l'asset allocation, cioè dove metto i miei soldi, dove metto le mie uova di prima, va sicuramente il primo punto da tenere in considerazione è l'orizzonte temporale. Se uno ha un orizzonte lungo può anche rischiare un po' di più. Se uno ha un orizzonte breve tendenzialmente tende a rischiare un po' di meno, quindi a comprare titoli un po' più sicuri che rendono meno, perché sa che se si rischia di più c'è più volatilità, quindi è possibile che magari l'anno prossimo sia sceso. Allora, rapidamente riusciamo a far intervenire il nostro ascoltatore di Napoli, che è Edmondo, che deve essere telegrafico. Edmondo, buongiorno. Buongiorno a lei, complimenti per la sua bellissima voce. Ah, meno male. Una domanda da ignorante. No, per carità, siamo tutti ignoranti, guardi, su questi temi. Studiamo tutti questo, i giorni. Io perché... ad esempio, vorrei comprare questi BTP a 7 anni. Vado in banca. Quanto pago? Cioè 5.000 euro, quanto pago? E se questi interessi che mi danno per i 7 anni mi vengono dati con una cedola, certo, oppure credo che sì. 7 anni e così via? Dopo la domanda da neofita. Ecco qua, l'ABC del BTP a 7 anni, Moria Lungo. Allora, premesso che questo sarà collocato in maniera diversa rispetto al solito, perché solitamente in asta. Per tutti i BTP bisogna andare in banca, nessuno può partecipare direttamente a un collocamento, lo fa la banca, però con l'ordine dei clienti. Il BTP viene acquistato, ovviamente il rendimento che viene espresso è il rendimento lordo, al quale bisogna togliere le tasse, che sono 12,5%, e la commissione bancaria, perché le banche applicano una commissione che varia da banca a banca. Certo. Quindi a quello si arriva al rendimento netto vero, che è quello che percepisce. Il rendimento dei titoli di Stato, come i BTP, sono a cedola fissa, vuol dire che ogni anno staccano un tasso di interesse, quindi uno percepisce gli interessi durante la vita del titolo e soltanto alla fine, l'ultimo giorno, scade e quindi uno percepisce tutti i soldi che ha investito. Tutto il capitale iniziale. Bene, abbiamo terminato, Moria, dovevamo parlare di tante cose, anche di tele come Monte dei Paschi, però insomma ti invitiamo molto presto e completeremo tutti i nostri ragionamenti finanziari, ma non solo. Nicoletta. L'uomo di cuore e denari, lo chiamiamo così? Lo chiamiamo così, sì. Molto volentieri, anche se gli piace naturalmente, perché magari... Sì, ho più cuore che denari, ma va bene. Però insomma, ha tutta la gioventù che... Carmelo si sta sbracciando perché mi taglia sempre, lo saluto. Salutiamolo. Possiamo già anticipare il tema di domani però, credo, stavolta. Sì, perché domani parleremo di salute della vista e la giornata mondiale. Grazie a tutti, buona giornata, domani. Cuore e denari.